24 mattino. Rieccoci, buongiorno. Scaldiamoci un po' con un classico, il grande De Luca. Buonasera, centinaia. Presidente De Luca. Sono centinaia di migliaia di milioni per sì. Centimetro quadrato. No, il povero Edoardo Vianello non può più cantare la canzone che dice: nel continente nero perché? Ci sta un popolo di negri. Ma perché? Perché nel continente nero quel popolo non c'è. Ma guardi, io sono capisco. Tutti sul lungomare a Salerno. Allora, fatemi vedere Oscar Giannino, siamo separati e la telecamera è spenta, non vuole più farmi vedere come è vestito, però io posso dirvi che il gattone è lì. Ma come, dai, descrivi, sei nudo, sei in canotta, hai nudo? Una, hai una marzina. Dare il messaggio di avere, che ti abbiano messo una specie di matto che mal sopporti, cioè abituati, cioè, vediamo chi resta di più dei due, cosa vuoi che ti dica io? Ah, mi vuoi cacciare? Ma no, ma e fai così tutte le mattine? No, ma perché sembriamo non ti vedo. Sembriamo moglie e marito che non che è vero, però non separate. Ti vedo e soffro, non ti vedo e soffro, la tecnologia ci deve unire. Allora, tante cose, oggi è arrivato anche il cane, eh? Mi hai sentito che c'era un latrato? E come no, mi sono messo nell'angolino piccolino piccolino. Allora, grandi temi su cui discutere. Io partirei subito da questo strappo di Calenda. Io, questa è la mia posizione. Sono con Calenda tutta la vita, nel senso che penso che se c'è un accordo bisogna provare a rispettarlo. Però l'Ilva dice: scusate, ma il costo del lavoro, se non c'è la produzione perché dobbiamo fare il recupero ambientale, non riesco a starci insieme con i conti, e io sto applicando il Jobs Act. Quindi la domanda è: Calenda fa bene, ma allora c'è qualcosa che non va nel Jobs Act? Oppure l'Ilva fa bene e allora il Jobs Act va tenuto e allora Calenda non può protestare? Questo è il paradosso che ti segnalo. Bello, ma allora non è che stai proprio con Calenda, perché segnali tu stesso che c'è un paradosso su cui Calenda sta. E cavolo se non c'è. E quelli dicono: noi applichiamo la legge. Che gli vuoi dire? No, anche perché nel bando di gara, come sottolinea Paolo Bricco sul Sole, c'è scritto esplicitamente che l'assunzione da parte del vincitore del complesso dell'Ilva di Taranto sarebbe avvenuta in, tra virgolette, discontinuità. Quindi questo Stato italiano, come sempre, scrive una cosa, ma la sua parola vale meno di niente. Lo non Stato solo, italiano non è in grado di mantenere la sua parola, perché non ha onore e dignità. Persone, no? Non ha gli onore. Dicono anche che devono assumere più persone perché ci sono i lavori di bonifica, che noi vogliamo che siano fatti, attenzione. Solo carità, che chi paga... Da anni. E questo è il problema grosso di questa mattina. Questa mattina il problema grosso è 5 anni, perché non c'è. In paesi avanzati dove impianti simili ci sono vicino ai centri urbani, non c'è, come al solito, alcuna vicenda analoga di un paese che si sia inflitto una sola botta tra le palle, essendo il secondo paese manifatturiero d'Europa, rinunciando a alcune milioni di tonnellate di acciaio ogni anno. Non c'è alcun paese al mondo, e non è vero che non ci sono impianti simili in altri paesi al mondo. Oggi sul Mattino, Davide Tabarelli, che è uno dei più grandi esperti di energia del nostro paese, inizia il suo pezzo dedicato all'Ilva con un paradosso che molti farà sobbalzare, e invece la pura verità, dicendo: la sapete una cosa che non si può dire in Italia, e cioè che è una delle acciaierie più pulite al mondo, quella di Taranto? Ecco, lo so che non si può dire, perché allora, dopo 5 anni siamo vittime di un luogo 00024 0024 per chiamare. Però il problema anche è questo: gliel'avevano detto agli operai quando c'è stato l'accordo, in modo chiaro. Bravo, giusto. Guardate, giusto, che questo accordo che salva il vostro posto di lavoro e la produzione deve passare per la cancellazione di tutte le vostre anzianità contrattuali. Io temo che questo non ci sia, perché no, se quelli hanno la maglietta pacta sunt servanda, probabilmente chiedono questo. È il solito pasticcio all'italiano. Però la domanda è: come scrive Repubblica, davvero pensiamo di ricominciare da capo? Azzeriamo anche questa gara e ricominciamo da capo? Per quanti anni crediamo di poterlo compromettere ancora per farlo restare in piedi Taranto? E Roberto Maria ha scritto un pezzo che mi ha posto un problema, perché non è che, capisci, una acciaieria si blocca per 10 anni, già ferma da 5, ma è sempre lì come se fosse il primo giorno. Vuol dire che rinunciamo all'acciaio se davvero per l'ennesima volta lo Stato non riesce a tenere fede ai propri impegni. Ti segnalo il pezzo di Giannini, che sicuramente avrai letto, sì, ma lo segnalo ai nostri ascoltatori, che è molto pessimista. Sì, si intitola Auto da fede l'acciaio, e non lascia scampo, perché dice: in realtà l'occasione si è già persa. Questo è il senso del pezzo. Bisognava dirlo prima, bisognava difendere prima, bisognava votare altre leggi prima. È come se Gianni dicesse: lo strappo di oggi è frutto di errori già fatti. Un primo messaggio su questo tema: dai compagno Carlo, finalmente un ministro compagno, e si riferisce a Calenda. Questo vero paradosso, mi pare di capire. Il vero paradosso, cioè Calenda compagno. C'è il compagno Toti. Sì. Buongiorno a Giovanni Toti, che sapete è governatore di centrodestra della regione Liguria, ma è di tradizione socialista. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno Luca. Allora, che succede sulla... proprio è la domanda che fa soffrire, ma che succede su questo accordo che si sta creando sulla legge elettorale? È vero che avete dato il via libera al governo sulla fiducia, che avverrebbe sia sullo Ius Soli che sulla legge elettorale? Escludo che qualcuno di centrodestra abbia dato il via libera sulla fiducia sullo Ius Soli, dopodiché deciderà il governo, evidentemente. Sulla legge elettorale mi pare che il percorso in commissione sia ben avviato e vediamo come sbarca in aula. Insomma, la fiducia sulla legge elettorale è una cosa abbastanza inusuale, ma però è su tutti i giornali, è su tutti i retroscena, no, dicono via libera di Forza Italia e Lega al governo sulla fiducia. Sulla legge elettorale vorrei augurarmi, e non sullo Ius Soli, evidentemente. Sulla legge elettorale, visto che, come dire, siamo in zona Cesarini di fine legislatura e a votare pure bisogna andarci, e questa legge elettorale è certamente un passo avanti rispetto alle due sentenze autoapplicative che porterebbero Camera e Senato ad essere eletti con metodi totalmente diversi e certamente incapaci di dare una maggioranza. La fiducia può essere uno strumento, come dire, una estrema ratio, ecco, non è una cosa usuale. Io non me la ricordo né da giornalista né da neopolitico una fiducia sulla legge elettorale, ma infatti è l'unica nei tempi recenti, lo ricordavo prima, l'ha messa Renzi sull'Italicum, poi sulla legge truffa nel 53 lontano, e poi dopo Mussolini sulla legge Acerbo. Non sono precedenti entusiasmanti. Mi sembrerebbe più scandaloso che questo Parlamento non fosse in grado di fare una legge elettorale con cui mandare i cittadini a scegliere che non mettere la fiducia, ma insomma sono cose parlamentari. Credo che interessi assai di più la sorte dell'Ilva a questo paese che non la fiducia sulla legge elettorale. Ecco, qual è l'opinione della mia città? Qual è l'opinione di Toti? Perché già stanno piovendo critiche. Leggo un messaggio: Giannino, voglio vedere se a lei gli diminuiscono lo stipendio, fate i seri. Comunichiamo a chi è in ascolto che è avvenuto quest'anno a Radio 24 nella proporzione del 33%, eppure sono qua. Quindi, cari ascoltatori, cari ascoltatori, cambiate musica. Sì, qui pratichiamo benissimo, di fronte alle difficoltà dell'azienda, anche la via, che a volte è necessaria, di condividere i sacrifici dell'azienda. Tanto per dirne una, ecco. Toti. Non c'è dubbio che i lavoratori talvolta debbano essere chiamati a condividere i sacrifici dell'azienda. Detto ciò, gli stipendi di un metalmeccanico non sono... Ma sono d'accordo, ma infatti lo dicevo solo per chi crede che qua si faccia la pacchia. Non è così. Il problema, secondo me, Toti, però, è questo. Se nel bando c'è scritto che le assunzioni sono in discontinuità, chi vince il bando dice: ma se ce l'avete scritto nel bando che erano in discontinuità le assunzioni... Attenzione, nel metodo e nel merito. Nel metodo, ieri al Ministero dello Sviluppo Economico si è vissuta una giornata piuttosto surreale, perché quella lettera che dava il via alle trattative tra sindacati e il nuovo presunto acquirente, cioè Gruppo Mittal, era firmata anche dai commissari di governo che attualmente dirigono Ilva. Quindi un ministro si è seduto al tavolo e ha sostanzialmente sconfessato l'avvio di trattativa firmato anche dai commissari da loro stessi nominati. Quindi c'è qualcosa che... Non c'è dire, dubbio. Almeno una mancanza di comunicazione c'è stata, diciamo, all'interno della compagine di governo, visto che quei commissari che hanno firmato insieme a Mittal quella lettera che prevedeva una serie di condizioni per avviare la trattativa è stata confessata dallo stesso organismo, il governo, che ha nominato quegli stessi commissari che hanno trattato con Mittal. Io a questo punto ho un po' di confusione in testa, sarebbe bene ricostruire la filiera di quello che è accaduto. Dopodiché, nel bando bando di gara ci sono scritte probabilmente molte cose, ma nessuno è stato coinvolto in quel bando di gara. Su Genova-Cornigliano, ad esempio, esiste un accordo di programma firmato nel 2005 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal MISE, dal Ministero del Welfare, Regione, Comune, che prevedeva e prevede, ed è successo, la chiusura dell'area a caldo di Cornigliano, assai inquinante come le aree a caldo talvolta sono, evidentemente, ma prevedeva anche tutta una serie di condizioni per il futuro di quell'azienda, livelli occupazionali, addirittura la costituzione di una società pubblica che esiste qua a Genova, che si chiama Società per Cornigliano, per gestire i lavori di pubblica utilità, gli esuberi, le riambientalizzazioni. Ma Totti, nel 2005 erano tre proprietà fa, c'erano i privati e poi ci sono stati i commissari, adesso c'è una nuova proprietà che arriva. Non sto dicendo che nel 2005 le condizioni non fossero diverse, sto dicendo che quella fabbrica ha una storia e quando si vende una proprietà che ha una sua personalità giuridica si deve tener conto di quella storia, degli impegni presi, degli accordi sindacali vigenti, degli accordi istituzionali, perché a Genova esiste un percorso, ad esempio, lo ripeto, siglato con quegli accordi di programma e mai disdettato, perché io una settimana fa ho firmato sulla base di quell'accordo di programma alcune cose che ne derivano, tipo i lavori di pubblica utilità per i dipendenti di Ilva, pagati con soldi pubblici del contribuente attraverso una società pubblica creata da quell'accordo di programma. Allora, la storia di Ilva è una storia complessa, una storia importante, nessuno ne ha tenuto conto e nessuno l'ha detto a Mittal quando si è stato chiesto di partecipare al bando di gara. Si può fare tutto, non è questo il tema. Il tema è che non si può fare senza confrontarsi con il mondo intorno e con la storia che si è appena passata. Allora, grazie, storia solo un attimo di pausa, Totti, perché abbiamo la pubblicità, questo accordo non lo possiamo disdettare, torniamo subito dopo. Ma fammi ridere, fammi ridere, caro ascoltatore, Simone, fammi ridere. State ascoltando un programma offerto da Fidelity International, soluzioni di investimento per costruire un futuro migliore. Mattino. Abbiamo chiesto dunque alla società di in avvio di tavolo confermare questi elementi, dunque al parte il piano occupazionale, il riconoscimento per un costo medio che mi pare sia intorno ai 50.000 euro. Questa conferma non è venuta e pertanto abbiamo detto all'azienda che senza questa conferma il tavolo per noi non si può aprire e abbiamo richiamato e richiameremo ancora nelle prossime ore gli azionisti alla loro responsabilità e alle obbligazioni assunte con il governo italiano. I delfini vanno a ballare sulle spiagge, gli elefanti vanno a ballare in cimiteri sconosciuti, le nuvole vanno a ballare... Caparezza, che racconta dell'Ilva e della sua Puglia, il ministro Calenda che spiega perché c'è il rischio che l'accordo sia disdettato. Noi stiamo parlando con Giovanni Toti, governatore della Liguria, e con Oscar Giannino. Allora, vogliamo chiudere, Toti, con uno scavo su quello che sta accadendo. Come si mette la situazione se passa la legge elettorale e se si creano queste nuove regole per andare al voto? Io temo che quella sia una legge molto simile a quella che non vi piaceva, una legge tutta di nominati. Ma no, i collegi sono un modo per avvicinare gli eletti agli elettori, insomma, la Gran Bretagna vive sui collegi, 236 collegi che sono delineati nel Rosatello, ma non mi pare siano esattamente, come dire, insignificanti da questo punto di vista. Io credo che Rosatellum, come tutte le mediazioni ovviamente, è una legge che lascia insoddisfatti molti, ma è anche una legge che supera i due consultellum, che sono certamente peggio. Quindi, siccome il meglio è nemico del bene, come si dice, è meglio il bene che niente. Ecco, io penso che tutto sommato, date le circostanze, sia una legge più che accettabile. Poi magari nella prossima legislatura il Parlamento riuscirà a fare di meglio, ma insomma, diciamo che siccome intorno a marzo gli italiani, dopo lunghi 5 anni, saranno chiamati a votare, sarebbe bene mandarli con una legge che costruisca un governo, speriamo, un po' più efficace di questo, perché ripeto, la giornata di ieri sull'IBA mi perplime moltissimo, non tanto nel merito, che ancora ne dovremmo discutere a lungo, ma nel merito, perché sembra che questo governo abbia trattato per 2 anni la privatizzazione di un'azienda strategica per il nostro paese senza essere presente a se stesso. Sono arrivati ieri come se fosse il primo giorno, in realtà la trattativa con Mittal va avanti da molti mesi. E infatti leggo quel passaggio, grazie allora a Giovanni Toti, leggo grazie quel passaggio che mi interessava di Giannino: la discontinuità contrattuale ed economica, fra virgolette, era stabilita già nel bando di gara, contestarla adesso non serve. La stessa cosa vale per la riassunzione con la disciplina del Jobs Act, che la sinistra politica e sindacale avrebbe dovuto fermare prima se avesse avuto la forza parlamentare e sociale per riuscirci. Farlo adesso significa non aiutare la causa, tra virgolette. Questo è Massimo Giannini su Repubblica, no, non certo, ma soprattutto parlo adesso, se un amico delle ferriere. Come in politica le parole hanno significato, in questo caso Carlo Calenda è uno che usa parole da manager, cioè sapendo quello che significano. Quello che può voler significare è solo che davvero il governo, sotto lezioni, per non far inoltrare protesta, perché a questo punto c'è da prevedere che a Taranto, come a Genova, a Novi Ligure, la protesta ovviamente esploda. Già possiamo ieri le forze dell'ordine hanno fatto sapere ai giornalisti che se ne occupano, c'è chi ha iniziato a mestare, eccetera. Certo, c'è anche la vicenda di Piombino, dove lì la politica ha fatto un altro incredibile errore, perché non ha dato retta a tutti coloro che seguono la vicenda dell'acciaio italiano, che hanno detto: ma come fate a prendere sul serio questa cordata algerina? E purtroppo infatti si è visto che i dubbi erano ben riposti. Ecco, detto tutto questo, però, se Calenda ha pronunciato quelle parole, significa che sotto lezione vogliono davvero azzerare tutto e dire: va bene, allora facciamo un'altra gara, che è una cosa pazzesca, però dà l'idea di come la mano politica oggi italiana non sia in grado di gestire nulla, dall'Alitalia all'acciaio. No, ma lo dico con amarezza, purtroppo, perché ripeto, questa vicenda dell'acciaio per un paese manifatturiero, noi ci siamo fatti un male incommensurabile. Siamo passati eravamo quasi a 29 milioni di tonnellate di acciaio l'anno, siamo scesi a meno di 22, l'anno scorso siamo risaliti a 23, ma questo dà l'idea di che cosa è stata questa vicenda del commissariamento giudiziale. Sì, una parte del vincolo di produzione è dovuto al problema ambientale, non dimentichiamolo mai, è un vincolo che è stato posto perché si diceva in quelle condizioni. Ripeto, in Italia, se vai a Linz in Austria, non un po' molto oltre il confine, trovi un impianto che produce più di 6 milioni di tonnellate d'acciaio a colata continua, quindi in alto forno, e lì l'adeguamento ambientale non gli è passato per la testa a nessuno di farlo con lo stop, il sequestro e l'uccisione dello stabilimento per anni. Cioè, altrove queste cose non si fanno attraverso i colpi di testa dei sequestri e dei commissari, si fanno pianificando in maniera tale da non perdere la produzione. Qua in invece Italia noi, invece no, per 6 anni la produzione non potrà salire sopra i 6 milioni di tonnellate. Questi sono i fatti. Fabrizio da Milano. Salve, no, buongiorno a tutti intanto. No, io volevo dire che dalle parole sia del ministro Calenda che dell'onorevole Toti si capisce il livello della politica italiana e soprattutto la serietà della politica italiana. Cioè, noi abbiamo qui un bando emesso da commissari dello Stato con indicazioni precise prese da società internazionali, quindi ne vale anche la credibilità internazionale dell'azienda, che viene totalmente rimessa in discussione una volta concluso il bando, una volta selezionata l'offerta. Per me è veramente qualcosa di totalmente allucinante, che mette in discussione proprio la credibilità del nostro paese. Stiamo parlando di un qualcosa di assolutamente pazzesco. Sì, ma poi io segnalo una cosa che non riguarda solo questo bando, cioè il problema è proprio il Jobs Act. Siccome questo governo dice è il nostro più grande successo, siccome Renzi dice ogni volta è la legge più importante, quella è la legge che è stata applicata, che consente di azzerare in caso di passaggio di mano tutte le anzianità contrattuali. Abbiamo Laura Castelli, parlamentare del Movimento 5 Stelle, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, quanto siete arrabbiati sul governo che annuncia la fiducia? È vero che farete le barricate in aula? Stiamo parlando della legge elettorale, ma è come dire un punto simbolico, no? È uno strappo, nel senso che eravate nel vecchio accordo, adesso il governo dice: ho trovato dei nuovi partner, mi faccio una legge e ci metto la fiducia. Io devo dire che quello che sento in giro è cittadini molto preoccupati. In questi giorni anche la stampa ha raccontato che cos'è questa proposta di legge elettorale, e secondo noi e questa volta anche secondo i mezzi di stampa è una cosa molto fuori dal comune. Parliamo di una legge che non prevederà coalizioni con accordi di programma e neanche con un leader politico unico, per cui il cittadino andrà a votare, non potrà scegliere una preferenza, quindi non potrà decidere chi entrerà all'interno del Parlamento per essere suo portavoce, ma non sa neanche quale programma insieme alla sua coalizione porterà e realizzerà in Parlamento e tantomeno chi sarà il leader di questa coalizione. Io quello che ho visto è deputati di tutti i partiti politici molto ansiosi, perché non è vero che questa legge piace a tutti, sono tutti molto preoccupati di non rientrare visto che le liste saranno molto corte e quindi ci saranno pochi candidati, quindi io credo che i colpi di scena si possano perché non vi piace iniziare. Cerchiamo di spiegarlo proprio in italiano per principianti. Perché non vi piace il modo in cui si arriva a questo collegio uninominale, che è il punto che forse contestate di più, se non sbaglio, no? Guardi, la cosa più grave di questa legge, l'ho detta, a parte ancora una volta non ci sono le preferenze, quindi non si potrà scegliere chi deve entrare all'interno del Parlamento, si possono fare delle coalizioni, quindi partiti che si mettono insieme senza un programma comune. Mi dica lei come un cittadino che ha delle proprie idee, delle proprie ma anche ideologie politiche, come fa un cittadino a pensare che quattro partiti possano mettersi insieme e accaparrarsi insieme dei voti senza un programma comune? Poi entrano in Parlamento e non si sa che cosa faranno su grandi temi come l'energia, come l'ambiente, come la scuola, come la sanità. E in più non hanno previsto il fatto che ci debba essere un leader comune, quindi un rappresentante comune della coalizione. Io credo che questo combinato disposto sia la cosa più grave. Quindi voi dite, no scusi, lo traduco, non essendoci un leader non sono delle vere coalizioni, sono degli apparentamenti che servono soltanto a mettere insieme più partiti e a superare voi dei 5 Stelle, questo è il senso, giusto? Non c'è neanche un programma comune, che è la cosa più grave, poi quando si arriva in Parlamento si devono portare avanti dei temi. Come si fa se prima non si sono tracciate le linee di un programma comune? Questo significa che i programmi non valgono nulla e io le dico sinceramente, tutto quello che invece riguarda l'uninominale, la lista plurinominale, sono tutti tecnicismi che interessano molto ai parlamentari. No, ma questo è chiaro, cioè basta prendere le ultime amministrative. Il Movimento 5 Stelle è il primo partito ma l'ultima delle coalizioni. Se uno consente l'apparentamento senza programmi e senza leader, di fatto vi sta fregando. Ecco, lo abbiamo tradotto in italiano, Oscar. Esatto. Per quello che mi riguarda, aveva la Carta di Venezia del Consiglio d'Europa del 2002 che prescrive che nell'ultimo anno di legislatura non si possono cambiare le leggi elettorali. Tutti se ne fregano, però, perché quella norma? Quella norma nasceva dal tentativo di evitare le manipolazioni dei partiti all'ultimo secondo. In Italia invece siamo specialisti, visto che cambiamo una legge elettorale almeno a legislatura. E si vede come, perché quello che ha detto la nostra ospite è verissimo, queste finte coalizioni autodissolventi che siccome sono un terzo dei seggi maggioritario non servono a garantire una maggioranza coesa per governare, b sono coalizioni autodissolventi, quindi è la finzione di una coalizione, sono una delle più grandi distorsioni del panorama elettorale mondiale, cioè l'inventiva italiana nel non adottare sistemi che altrove funzionano, poi possono essere tutti proporzionali, proporzionale corretto, maggioritario a doppio turno, un turno, noi ci mettiamo ogni volta cose che servono solo ai signori segretari dei partiti, prima cosa. Secondo, la quantità di nominati è spaventosa, se sommiamo il fatto che non abbiamo la certezza di un governo coeso, non saranno gli italiani a sceglierlo, le coalizioni sono finte, la quantità di nominati è una roba perché anche nei collegi non ci sono le primarie per legge, quindi pazzesca, i partiti decidono con i loro leader. Per quello che mi riguarda, auguri, ma la mia opinione e impressione è questa, cioè è chiaramente frutto di una convergenza politica di due contro uno. Poi io non tocca a noi, Luca, dire chi è meglio, questo lo decide chi ascolta, chi vota, però non ci possono essere dubbi, Luca, sul fatto che sia così. Infatti tutti i giornali, come dici tu, oggi addirittura propongono una logica di doppia maggioranza che fa parte di questo interscambio, no? Di doppio voto di fiducia, cioè se, dai per favore, una volta che abbiamo fatto il patto sulla legge elettorale mettiamo la fiducia su questo, così evitiamo di passare per i voti a scrutinio segreto decreto in Parlamento su cui molti fucilerebbero. Ecco, e in cambio sì, Ius Soli, in cambio di questo, capisci? Quindi è un patto politico esplicito tra il PD e Berlusconi. Su. Cittadina Castelli, arrivano messaggi anche per lei e quindi le chiedo, dopo la pubblicità, cosa pensate? Perché non chiedete 5 Stelle cosa pensano sul Jobs Act e sullo Ius Soli? Le chiediamo immediatamente dopo la pubblicità. Ciao caro. Mattino. Rieccoci, cani e gatti, Oscar Giannino, Luca Telese, Laura Castelli, a lei la parola. Beh, allora, sul Jobs Act il Movimento 5 Stelle ha dato dura battaglia e l'ha fatto in maniera molto chiara anche nelle piazze con i cittadini che manifestavano contro. Il Jobs Act ha fallito, è una misura che aveva la volontà di rendere più flessibile il mondo del lavoro. Quello che ha fatto è spostare le persone che erano occupate con dei contratti stabili in persone che oggi hanno contratti molto più instabili e che non hanno di fatto flessibilizzato il mondo del lavoro, l'hanno reso molto più ballerino. Questo si ripercuote infinitamente, io seguo i temi economici, quindi provo ad avere una visione macroeconomica un po' più ampia. Questo si è riflesso tantissimo anche sul mondo dei consumi, perché le famiglie sono più insicure, hanno più problemi a programmare il proprio futuro e quindi tutto quello che riguarda la produttività, i consumi, le aziende che non riescono a raggiungere più alti fatturati, le tasse che non entrano nei conti dello Stato, è anche una derivazione del Jobs Act, senza contare che i soldi che questo governo ha speso per gli incentivi del Jobs Act sono talmente tanti e poco efficienti che sarebbero stati più utili per fare delle misure come il reddito di cittadinanza che l'Europa chiede, che addirittura in Commissione Europea è stata votata come misura necessaria in tutta Europa e che, visto che siamo in un programma che parla di temi economici, a livello europeo avrebbero aperto degli spazi finanziari, quindi avrebbero permesso all'Italia di investire di più, una cifra che più o meno vale 20 miliardi, perché il reddito di cittadinanza ha la potenza di trasformare gli inoccupati in disoccupati in cerca di lavoro e questo nei calcoli europei, della burocrazia europea, vale la possibilità di spendere 20 miliardi. Sullo Ius Soli il Movimento 5 Stelle crede che non sia questo il momento di parlare di questo tema per diverse convergenze politiche, ma soprattutto parliamo di una legge che il partito di governo non porta al Senato perché non ha i numeri e quindi che il partito di governo prenda il coraggio, se vuole davvero portarla avanti, la porti in Senato, dopodiché ci sarà una democratica discussione con voti di emendamenti e si vedrà che cosa esce. Perfetto, allora grazie, la salutiamo, è giunto il momento di telefonate, dibattito libero. Oscar, che altro ti ha colpito sui giornali di oggi? Guarda, io oggi passo tutto il giorno a intonare una preghiera laica tra me e me, nella speranza che in Catalogna, visto che la linea dura dei manganellatori spagnoli che piace così tanto in Italia, perché tutti riducono la faccenda a teatrino, ecco, io spero che ci sia un sussulto di ragionevolezza, però è anche... devo anche dire che non lo spero più, perché è evidente dai toni degli intellettuali spagnoli e così via che l'idea oramai è di aver stravinto, di dover umiliare, prevale, e questo mi dispiace molto, perché io credo che sarà una vicenda le cui ferite resteranno aperte, perché di ogni umiliazione poi nasce un nuovo ciclo di radicalizzazione. Quindi non cambio la mia idea, ma ti dirò che oggi spero proprio che non avvenga un nuovo passo per la radicalizzazione, cioè che non avvenga, no, perché non serve a niente. Una volta che si arriva al muro contro muro e dire ecco la secessione e iniziano gli arresti di massa dei politici catalani, penso che sia un'arretratezza, una barbarie, e chi invoca linee ancora più dura mi lascia senza parole, perché evidentemente la storia è proprio destinata a ripetersi. È una grande, veramente una grande amarezza per me, perché è una pagina ingloriosa per l'intera Europa, ma non perché io penso che l'Unione Europea attuale avesse chissà quali poteri di l'intervento, la sua maestà nazionale, lo so anch'io, ma perché quello che mi colpisce è questa deriva, questo misto di indifferenza e di inerzia brutale. Ecco, come sempre la storia ha accelerazioni imprevedibili e sfugge di mano quando l'indifferenza e la brutalità prevalgono. Lo dico per la Catalogna come per qualunque altra cosa, ma quella era una grande questione che aveva bisogno di un equilibrio, di un senso della storia, cioè di statisti veri, e purtroppo mi pare che difetti, non solo in Italia, in questo caso come si vede anche in Europa. Fate disinformazione, siete penosi, un messaggio, una tribuna per i 5 Stelle, complimenti per il pluralismo. Ma Livia, sotto lezioni adesso ogni volta prima. Che avremo un ospite No, però va detto, 5 minuti prima, se eri al volante, sotto la doccia, se stai facendo colazione, avevamo Toti, ieri avevamo esponenti del PD, giorno prima abbiamo avuto Bersagnani, abbiamo questa brutta abitudine in questo programma, sentiamo tutti. Però che no, brutta roba, è una follia, lezioni, ciascuno come uno vuole solo uno. I propri, esattamente. Solo i propri, solo la propria tribù. Qui non ci sono tribù. Umberto da Milano. Pronto? Sì. Buongiorno. Buongiorno. Aspetti un attimino che l'attimino. Sì, sì, ne approfitto per dire che qualcuno ci bacchetta anche sul linguaggio. Sì, Oscar, qualcuno segnala che abbiamo detto entrambi detto questo e non è gradito, quindi stai ben attento. Prego, Umberto. Ci ho detto. Vai, Umberto. Sì, ti sentiamo, vai, lanciati. Umberto, vai. No, ma che hai l'auricolare? Non puoi stare con l'auricolare. Perché praticamente noi stiamo creando tramite un avvocato un gruppo di persone che per tutta Italia praticamente adesso vorremmo chiedere un referendum raccogliendo le firme per eliminare questo schifo della politica di partiti partitini. E che volete fare? Con il Presidente della Repubblica. Praticamente devono essere solo in Italia due partiti, uno che governa e uno che sta all'opposizione. solo due partiti. Allora, Umberto, è interessante come provocazione, ma non si può fare. Esiste la Costituzione, finché c'è la Costituzione non si possono avere solo due partiti. Poi il terrore di chi già ne conosce tanti, averne solo due, secondo me sarebbe da mettersi le mani nei capelli, perché si metterebbero subito d'accordo. L'Europa è governata da inciuci e guardate cosa succede poi quando questa è l'unica forma. Quindi non è una buona soluzione, secondo me, ma non so, Oscar. No, perché io i partiti unici stabiliti per legge è un'altra cosa. E io all'ascoltatore suggerisco di telefonare, però nella fascia più tardi, quando c'è Giuseppe al microfono. Questo è il tipo di provocazione che piace a lui. In questa mattutina noi dobbiamo dire che il numero di partiti per legge non si può fissare, no, ecco, poi non si può fare, signor mio. Senti, ma hai visto che ci sono 1000 peppine? Ho letto questo pezzo nella segna stampa e mi ha colpito, cioè tanti, tantissimi, cioè quella era la punta di un iceberg, sono tanti e si sono fatti la casetta. E sono tutti fuori legge. E il problema è che da una parte capisci che se sono tanti non stiamo parlando della vecchietta 95enne e non va bene però, perché stiamo parlando dell'auto, per così dire, dell'autoiniziativa. Dall'altra però, in un paese che le casette di Stato, come sempre, lo Stato che non mantiene la parola sull'IVA, neanche sulle casette, vista la percentuale, siamo al secondo inverno, no? Che hanno davvero consegnato rispetto alle promesse, e anche in quel caso la gente sta da fare da sola però, e quindi, pur essendo in torto, ma è davvero così in torto, visto che il primo in torto è lo Stato? Ecco, l'Italia è un eterno paese di domande senza risposte, è per questo che non sappiamo dove va. Bella, questa la mettiamo da parte, un eterno paese di domande senza risposte. Sei